Allora, quello che vorrei fare in pochi minuti, in maniera tale da lasciare tempo per le vostre domande, le vostre curiosità, è quello di dare un'occhiata al territorio, al contesto in cui ci muoviamo, in cui lavoriamo, e questa è un'operazione che necessariamente deve passare dall'analisi, dall'esame rapido di una carta geografica, di una mappa attraverso la quale poi è possibile rendersi conto di quello che è appunto il contesto in cui noi lavoriamo. Vediamo se riusciamo ad arrivarci, è molto piccola, comunque adesso la ingrandiamo e piano piano arriviamo esattamente appunto a Cremisan, al luogo di cui si parla e in cui il VIS lavora insieme alla comunità salesiana e alla cantina. Questo è il profilo della Cisgiordania, ovvero la parte più grande dei territori occupati, palestinesi, territori occupati. Abbiate pazienza se sono convinto che moltissimi, se non tutti di voi, già conoscono le basi, se non altro del conflitto, ma comunque sia può essere utile rivederle. I territori occupati palestinesi che comprendono appunto la Cisgiordania, questa fetta di terra che ha un po' la forma di una clessidra, diciamo, con un ampio bacino al centro-nord, un bacino di nuovo ampio a sud e una strozzatura al centro, in questa zona qui, all'altezza di Gerusalemme. E poi ovviamente la striscia di Gaza che è la parte sicuramente più tormentata e che più spesso anche sale alle cronache per via dei bombardamenti e delle operazioni dell'esercito israeliano a gennaio di quest'anno. Tutti ricordiamo, ecco, il conflitto che ha insanguinato la striscia di Gaza e che appunto si trova separata dalla Cisgiordania non solo da un punto di vista geografico, territoriale, ma anche politico, perché ancora oggi, ormai ad oltre 2 anni di distanza dal colpo di mano del giugno 2007, la striscia di Gaza è di fatto governata da Hamas, dal partito di Hamas, mentre la Cisgiordania è in mano all'autorità palestinese, controllata da Fatah e quindi dal presidente Abu Mazen, successore di Arafat, che morì nel novembre del 2004. Quindi è una realtà estremamente variegata, estremamente complessa, in una parola si potrebbe dire frammentata. Infatti di solito si usa proprio la parola frammentazione per descrivere questo territorio che è un mosaico di pezzi diversi, distanti, slegati tra di loro, in cui è difficile muoversi, soprattutto ovviamente per i locali, per un internazionale che arriva forte del suo passaporto europeo, magari non è nemmeno immediato cogliere di primo impatto le difficoltà che ci sono nel muoversi da una città all'altra, perché comunque sia un passaporto consente di attraversare i posti di blocco israeliano abbastanza facilmente, tutto al più si tratta di attendere ore che poi comunque diventano ore cruciali quando si tratta anche di consegnare prodotti deperibili come le uve che devono essere ovviamente spremute a breve di distanza di tempo dalla vendemmia. E comunque sia, un internazionale riesce a conoscere il territorio, a muoversi, mentre un palestinese, come anche faceva accenno Sara nel video, deve richiedere permessi sia per entrare in Israele, quindi a ovest della linea verde, e ora ricorderemo che cos'è la linea verde, ma a seconda della situazione politica, a volte necessita di un permesso anche per muoversi tra una città palestinese e l'altra, per esempio tra Betlemme, eccola qui, subito a sud di Gerusalemme, al centro quindi della Cisgiordania, e le città del nord, Jenin, Nablus, per esempio. Conviene muovermi con questa. Eccole qua, che sono appunto a 100-120 km di distanza, e quindi la maglia della rete stradale palestinese è controllata comunque dall'esercito israeliano, e quindi può capitare in qualunque momento di essere fermati e di essere trattenuti per ore, se non rispediti indietro, se non rispediti a casa. Ci concentriamo quindi un momento sulla Cisgiordania. La Cisgiordania, dove vivono circa 2 milioni e 700 mila persone palestinesi, quindi arabi, più 250 mila coloni israeliani. E questa è una, ovviamente, delle facce del conflitto più intricate, più complesse da risolvere. Coloni, quando si parla di coloni israeliani, si parla di civili israeliani. Infatti l'occupazione israeliana dei territori palestinesi, che comincia con la guerra dei sei giorni nel giugno del 1967, non è soltanto militare, ma è anche civile, ovvero persone, famiglie, immigrati, moltissimi immigrati spesso che arrivano dall'ex blocco sovietico, crollato appunto nel 91, e quindi che ha generato un forte flusso di migranti, spesso anche ebrei, cristiani ortodossi, che comunque hanno radici ebraiche, che hanno cercato rifugio in Israele, anche attratti da vari incentivi economici, sociali. Ecco che Israele ha vissuto appunto e continua a incentivare, ad attrarre un flusso di immigrati importante al fine di consolidare la parte non araba della propria popolazione, e molti di questi immigrati, soprattutto i lavoratori della costa, delle città della costa, che ora qui non solo in parte si riescono a vedere, ma sono soprattutto Netanya, Cesarea, Erzilia e poi Tel Aviv, ovviamente la capitale, che si trova più o meno qui, ecco, scelgono poi di vivere nei grandi insediamenti dormitorio, che sono per esempio questi due, Ariel, Immanuel. Praticamente tutte le zone viola, di colore scuro viola, che voi vedete su questa carta, sono zone occupate da civili israeliani, cioè zone urbane in cui gruppi religiosi, ma non solo religiosi, a volte anche assolutamente secolari eppure nazionalisti, hanno appunto stabilito, a partire dal 67 in poi, città, villaggi, colonie, quelle che sono colonie. E quindi si possono vedere vari tipi di insediamenti. Ci sono questi trasversali, che sono appunto molto molto grandi, sono gli insediamenti dormitorio. Ci sono altri insediamenti che sono collocati invece sulla dorsale montuosa della Cisgiordania. Infatti qui ci dobbiamo anche immaginare un momentino la forma del territorio. Qua si trova il mare, e quindi il mare Mediterraneo, ecco Tel Aviv, e quindi abbiamo una zona di pianura che più o meno arriva fino a qui, che è larga circa 15-20 chilometri. Poi il territorio inizia a salire, inizia a diventare collinare e poi addirittura montuoso, con altezze fino a 800-900 metri. Infatti teniamo presente che Betlemme stessa è collocata ad un'altezza di quasi 800 metri, quindi fa freddo, spesso nevica, e quindi non è neanche una leggenda quella del Bianco Natale a Betlemme. Tra l'altro noi l'abbiamo appunto vissuto in più di un'occasione. Nella dorsale montuosa si trovano insediamenti soprattutto religiosi, mentre nella valle del Giordano, che è un'altra fascia di territorio che si trova a est della catena montuosa, si scende molto molto rapidamente. Infatti la valle del Giordano, che è questa zona qui, il fiume Giordano nasce nelle alture del Golan occupate dalla Siria, sempre nella stessa guerra del 1967, entra nel lago di Tiberiade in Galilea e poi esce dal lago e continua a scorrere verso sud finché non sfocerà nel Mar Morto, il più grande lago salato del mondo. E prima di arrivare al Mar Morto, il fiume Giordano scorre appunto nella valle che prende il nome dal fiume, e che è la più profonda depressione del mondo, arrivando a meno 400 metri sotto il livello del mare. Quindi dagli 800 metri, 800-900 metri della dorsale montuosa, che si trova a questa altezza, si scende di 1200 metri circa, in maniera anche abbastanza ripida, per arrivare sul fondo della valle del Giordano. Sul fondo della valle, dove si trova la città palestinese di Gerico, eccola qui, e ovviamente dove si trovano molte colonie israeliane, eccole qua, con il colore sempre viola, che sono colonie soprattutto di vocazione agricola, quindi non a carattere religioso, non a carattere marcatamente ideologico, ma si tratta, diciamo, di colonie nate come kibbutz, come colonie di pionieri che dall'Europa, in alcuni casi, soprattutto dall'Europa, in alcuni casi anche da altri paesi, dagli Stati Uniti, sono arrivati per far fiorire il deserto, cioè appunto far leva sulle risorse idriche palestinesi del territorio e del fiume Giordano per poter irrigare piantagioni di banano, piantagioni di datteri, in cui tra l'altro lavorano anche spesso, perché non hanno alternative, cittadini palestinesi. E quindi la fascia della valle del Giordano, ecco, è una zona da un punto di vista agricolo assolutamente importante per l'economia israeliana. Vedete anche che ha un colore diverso rispetto al resto, e questo significa che è una zona militare, di fatto, non è una zona bianca. Questo colore bianco chiaro significa che è una zona C, tecnicamente chiamata C dopo gli accordi di Oslo del 1994, nel senso che l'esercito israeliano su di essa ha completa autorità, e non è possibile per alcun motivo per i palestinesi, che pure, ricordiamolo, vivono in questo territorio, costruire insediamenti, costruire città, costruire villaggi, comunque stabilirsi in maniera permanente. I palestinesi che cosa hanno a disposizione? Hanno a disposizione le zone A e B, che sono quelle gialle chiare e quelle gialle più scure. Voi, ecco, io adesso scorro in maniera anche un po' casuale la mappa, proviamo a ripercorrere il confine della Cisgiordania e praticamente vediamo come proprio si tratta di un groviera, di un formaggio, completamente di un mosaico fatto di tanti colori diversi. Il giallo chiaro, non so se si nota la differenza, appena appena, comunque questo giallo chiaro corrisponde alla zona B, dove l'esercito israeliano ha sovranità e responsabilità per quanto riguarda la sicurezza, mentre l'autorità palestinese ha appunto giurisdizione civile e amministrativa, mentre soltanto nelle zone A, che di fatto sono le zone più scure, le zone urbane, l'amministrazione palestinese ha un controllo completo, e quindi non solo per quanto riguarda l'amministrazione ma anche la sicurezza. Ora vedete come praticamente tutti i più grandi insediamenti urbani, ma non solo, e soprattutto le strade, quello che è cruciale sono ovviamente le strade, le vie di comunicazione, che sono essenziali non solo per l'economia, non solo per i trasporti, non solo per chi produce vino o qualunque altro prodotto, ma per il tessuto sociale, per la vita delle persone, per le famiglie che sono divise ovviamente tra una città e un'altra. Ecco, le strade più importanti, soprattutto la strada numero 60, che è questa qua, sono completamente appunto sorvegliate dall'esercito israeliano, e infatti il colore bianco mette in evidenza che proprio sono di competenza israeliana. Scendendo si vede che il panorama non cambia, anzi diventa sempre più complicato. Di nuovo, zone bianche sono zone militari in cui pur facendo parte dei territori palestinesi non è possibile costruire, non è possibile edificare abitazioni o villaggi, oppure anche ampliare, estendere quelli già esistenti, come questi qui, che quindi sono villaggi di fatto destinati a soffocare, di fatto destinati a morire, chiusi in enclave come questa, in enclave in mezzo alle colonie. Scendo verso sud perché voglio avvicinarmi all'area che più ci interessa. Questa è Ramallah, capitale amministrativa, assolutamente amministrativa, dei territori palestinesi, mentre Gerusalemme Est è la capitale che i palestinesi rivendicano come capitale del futuro Stato, nel momento in cui Gerusalemme Est si trova a est della linea verde e quindi appartiene a tutti gli effetti ai territori palestinesi. Scendiamo, e questo è veramente il centro nevralgico dei territori, perché Gerusalemme è un incubo, è un sogno, ma è anche un incubo, è una città straordinaria, affascinante, che continua a stimolare ogni volta che si attraversa soprattutto la città vecchia. Voi potete vedere qui che la città vecchia è un chilometro quadrato, ancora oggi circondata dalle mura dell'impero costruite dall'impero ottomano, eccole qui, e la città vecchia di Gerusalemme si trova appunto immediatamente a est della linea verde. E pur trovandosi all'interno dei territori palestinesi, essa viene rivendicata come parte integrante dello Stato di Israele, soprattutto come capitale dello Stato israeliano. E quindi ecco che i confini della città israeliana di Gerusalemme, stabiliti in maniera unilaterale nel 1967, non tengono conto ovviamente né della linea verde, né di altri limiti, né di altri vincoli, ma i confini della grande Gerusalemme appunto diventano, vanno oltre e attraversano anche la tenuta di Kremisan. Vediamo ora se riesco a tornare dov'ero. E quindi spero che questa breve panoramica appunto vi possa dare un'idea della, comunque della estrema eccola qua, un'idea della estrema complessità di cui parliamo. E proprio nel collo della clessidra, abbiamo paragonato la Cisgiordania a una clessidra, quindi questa piccola intercapedine che poi è l'unico anche via di comunicazione tra nord e sud della Cisgiordania, Israele negli anni ha costruito una cintura di colonie, una fascia, una cintura di colonie che la circondano su ogni lato. Infatti potete vedere che praticamente qui il colore viola domina assolutamente, domina sia a nord come a est come a sud, e di fatto si è cercato di creare una busta, quella che poi in inglese si chiama la busta di Gerusalemme, per appunto annetterla nella sua interezza allo Stato israeliano, a dispetto dello Stato invece di occupazione ai sensi della Convenzione di Ginevra, che è in atto appunto a partire dal 1967. Spendo le ultime due parole su questo quadro di terreno, che è quello appunto che ci interessa più da vicino, perché è qui che lavoriamo. Siamo a Betlemme. Allora, Betlemme vedete che è qua, e è circa 9 chilometri a sud di Gerusalemme ed è stretta tra tre blocchi di colonie. Abbiamo Har Homa immediatamente qui, quasi a est addirittura di Betlemme, a nord-est di Betlemme. Abbiamo Ghilo, che è addirittura spesso ormai nelle notizie, quando si sente parlare di Ghilo nei notiziari, nei giornali, spesso si fa riferimento a una periferia di Gerusalemme, viene chiamata neighborhood, periferia o quartiere, quando in realtà si tratta di un territorio occupato, tecnicamente occupato, al di là della linea verde. E poi Har Ghilo, che è un'altra piccola colonia che si trova esattamente qua, su un'altra collina, tra Betlemme e Beit Jalla. Infatti poi questa qua è anche Beit Jalla, un altro comune palestinese molto vicino a Betlemme. Ora, Kremisan, la cantina di Kremisan che abbiamo visto nel video dove lavora Andrea, si trova in una zona molto molto sensibile, perché è questa qui, perché è praticamente questa zona qui. Cioè si trova, come posso dire, sicuramente in territorio palestinese, perché se noi prendiamo come riferimento la linea verde, eccola qua, questa qui è la linea verde, ricordiamola che è la linea dell'armistizio tra Israele e Giordania dopo la guerra del 48, la guerra arabo-israeliana del 48, quindi l'armistizio del 49, che la indica come limite ma non come confine tra paesi, e quindi una linea, è anche di qui che poi nasce la guerra delle parole, la guerra degli equivoci. Allora questa linea, ma è un confine, è un limite, che cos'è? Io non vi voglio annoiare, però necessariamente almeno vorrei trasmettere la percezione della complessità, cioè la percezione del fatto che per capire quelli che sono gli elementi del contesto bisogna fare una certa fatica anche nel ricostruire la storia così come si è svolta. La linea verde è un limite di un armistizio, che non significa confine tra due paesi che hanno relazioni diplomatiche. Infatti un trattato di armistizio non è un trattato di pace. E un trattato di armistizio significa semplicemente che si mette da parte il cannone, si mette da parte il fucile, si mette da parte la pistola ci si guarda negli occhi, ma non ci si stringe neanche la mano. Quello è un passaggio successivo, che è quello del riconoscimento reciproco. E apro una piccola parentesi, conviene ricordare che ad oggi Israele ha, diciamo, trasformato accordi di armistizio in trattati di pace veri e propri, che quindi implicano il riconoscimento a tutto campo di uno Stato, soltanto con due dei paesi belligeranti interessati dal conflitto del 48, ovvero Giordania ed Egitto. L'Egitto nel 79 fu con Sadat e la mediazione di Jimmy Carter, fu il primo paese arabo a stabilire un trattato di pace con Israele, e lo stesso presidente egiziano Sadat fu ucciso pochi anni dopo, probabilmente per questo motivo. E quindi ad oggi ci sono relazioni diplomatiche, ci sono voli che collegano Tel Aviv al Cairo, mentre il secondo paese è la Giordania. Il trattato di pace con la Giordania è stato firmato nel 94 con il re Hussein, dopo gli accordi di Oslo, e quindi anche con Amman ci sono relazioni diplomatiche, mentre con Libano e Siria, che sono gli altri due paesi confinanti al nord, ancora oggi non ci sono relazioni diplomatiche ufficiali, non c'è un riconoscimento di questi paesi, quindi non ci sono collegamenti diretti, e come noi sappiamo molto bene ci sono anche grossi problemi di movimento nel caso che appunto si abbiano sul passaporto timbri visti di paesi arabi che non riconoscono Israele, che non hanno relazioni diplomatiche con Israele. Quindi la situazione è molto molto volatile. Le guerre degli ultimissimi anni ce lo ricordano. Il 2006 è stato un anno drammatico per il Libano. Con la Siria ci sono contatti continui sotto il tavolo, ma ad oggi Israele, questi paesi sono ancora in una situazione di limbo, di non riconoscimento reciproco. Ecco, allora torniamo qui a Betlemme. La linea verde è quindi una linea di armistizio, ed è su questo, non quindi una linea di armistizio che nasce nel 49, non nel 2004, e Israele fa proprio leva su questo concetto per dire: sì, noi nel 67 abbiamo varcato con il nostro esercito, con i nostri carri armati, una linea che non era un confine tra due stati, ma era un limite individuato su una mappa di un armistizio, e quindi ancora, diciamo, un territorio formalmente conteso. Infatti, proprio come diceva anche Zuzza all'inizio, la parola che loro considerano, diciamo, adeguata per descrivere i territori è contesi. In realtà la comunità internazionale è unanime, ed è importante sottolinearlo, nel inquadrare i territori palestinesi come occupati ai sensi della quarta convenzione di Ginevra del 49, e quindi soprattutto a richiamare Israele al rispetto dei doveri che vengono dalla stessa convenzione di cui Israele è stato firmatario, imposti alla potenza occupante. Ecco, dicevo quindi che Kremisan si trova in questa zona viola. Allora, questa zona viola è palestinese perché appartiene ai territori palestinesi, ai territori occupati, però allo stesso tempo questa zona appartiene alla grande municipalità di Gerusalemme, che qui non è segnata, ma voi la potete facilmente ricostruire guardando il percorso del muro. Infatti finora sono riuscito a parlare fin qui senza mai fare riferimento al muro, al famoso muro di separazione, che poi si è anche visto in alcune slide del video. Ecco, il muro che cos'è? Il muro è un oggetto molto concreto, che poi si chiami barriera o recinzione o quello che è, poco importa. Il muro è un muro vero e proprio di cemento, alto dai 6 ai 9 metri, laddove attraversa aree urbane densamente popolate, e quindi laddove non c'è spazio, fisicamente non c'è spazio per costruire strutture anche più ampie, e invece diventa una recinzione, una barriera con una trincea, con una pista per le per le jeep dell'esercito israeliano nelle aree rurali, nei campi, dove invece appunto c'è uno spazio maggiore e quindi in quelle situazioni è più conveniente dal punto di vista dell'esercito appunto realizzare una fence, una recinzione. Comunque sia, ecco che la barriera parte a nord, voi potete vedere il percorso è questo rosso con un tratto nero sottile all'interno, e spesso e volentieri il problema del muro è che il muro stesso non ricalca la linea verde di cui si parlava prima, ma la lascia, la abbandona per penetrare all'interno dei territori palestinesi in più di una zona. Qui, per esempio, ma soprattutto qui, per esempio, qui siamo nel nord, questa è Jenin, e il muro chiaramente non entra a caso, il muro entra, lascia la linea verde e entra all'interno dei territori per andare a circondare il 90% delle colonie, il 90% delle zone viola di cui si è parlato prima, e quindi dei coloni israeliani che vengono in questo modo, come dire, ricondotti al loro paese, a Israele, pur senza ovviamente essere spostati di un millimetro dalle loro case. Il muro infatti, ecco, che abbraccia questa colonia, la comprende, poi scende, di nuovo scende, qui torna sulla linea verde, siamo a Tulkarem, qui quindi il muro è completamente fatto di blocchi di cemento alti dai 6 a 9 metri, di nuovo torna all'interno dei territori e compie tutta una serie di volute come un serpente che si avvolge su se stesso. Infatti si può così segnalare che il muro stesso è lungo oltre 720 chilometri di muro contro una linea verde che è lunga 368 chilometri. Quindi il muro è lungo quasi il doppio della linea verde, del confine a cui dovrebbe fare riferimento, proprio perché se ne discosta in maniera così evidente. Qui penetra per queste colonie e poi di nuovo fa un'ansa perché vuole chiaramente lasciare la città di Qalqilia a est, cioè sul lato palestinese. Infatti in poche parole si può riassumere quella che è stata la strategia bene o male di ogni governo israeliano a partire dalla fondazione dello Stato oggi, ovvero quella di stabilire il proprio controllo sul massimo del territorio con il minimo della popolazione araba, della popolazione palestinese, ed è per questo che quindi una città di Qalqilia, una città di 50.000 persone, è stata completamente circondata su tutti i lati, è stata completamente circondata da un anello di cemento. Qui devo dire che le immagini satellitari sono molto più, come dire, esplicite di una carta geografica che vi fa vedere il muro semplicemente come un tratto di penna rossa. Però quando si vedono le fotografie e si vede effettivamente l'anello di cemento che chiude una città nella sua interezza, insomma è chiaro che non si può rimanere indifferenti. Ecco che il muro quindi torna verso l'interno e qui vedete che cambia colore, perché queste zone qua sono zone di grandi insediamenti. Eccola qui, questo è quello di Arielle, questo è quello di Emanuele, e il muro qui è in costruzione oppure è ancora in fase di approvazione, perché ovviamente questi sono i due tentacoli più profondi, si spingono all'interno dei territori palestinesi fino a 22 chilometri di distanza dalla linea verde, e quindi anche ci sono numerosi casi in pendenza presso la Corte Suprema israeliana che devono essere risolti, e la Corte Suprema deve pronunciarsi prima che appunto i cantieri possano andare avanti. Quindi in alcune zone, come per esempio qui in questa zona, ecco che il muro è stato costruito, vedete che è rosso, mentre nelle altre ci sono anche molte, bisogna dire, associazioni israeliane di avvocati israeliani, e non solo arabi israeliani ma anche ebrei israeliani, che fanno parte del cosiddetto Peace Camp, il campo della pace, e che sostengono le cause di cittadini palestinesi che appunto vogliono cercare di difendere i propri diritti sulla terra e quindi di ostacolare la costruzione del muro. Il muro scende, il muro qui torna ad avvicinarsi alla linea verde, ovviamente ingloba tutto questo lembo di terra che è terra di nessuno, cioè il trattato di armistizio del 49 con la Giordania non lo aveva assegnato a nessuno, né a Israele né alla Giordania, era rimasto appunto un lembo di terra da definirsi in seguito, è qui parco naturale ma c'è anche una colonia, e quindi nell'incertezza il muro lo lascia dalla parte israeliana, e poi prosegue, qui si allarga e qui appunto compie quelle che sono le sue anse, le sue volute più profonde, proprio per andare a circondare il maggior numero possibile di colonie intorno a Gerusalemme. Eccola qui la cintura della grande Gerusalemme. Quindi il muro scende, il muro, questa è una carta tra l'altro del 2008, quindi non è proprio aggiornata, perché praticamente potete immaginare che queste zone nere sono già diventate rosse, sono state costruite. E il muro arriva a Betlemme, corre lungo il campo rifugiati di Aida, in particolare questa zona qui, poi passa sotto un cavalcavia, risale la collina e arriva proprio a ridosso della tenuta di Kremizan. Infatti Kremizan, dicevamo prima, si trova qui, e poi subito sopra a Kremizan si trova un villaggio palestinese di Walage, il villaggio di Walage, chiamato di Walage, eccolo qua, questo qui. Come vedete che è una zona gialla però in mezzo al viola, quindi una zona, anche Don Franco nel video diceva, siamo qui in una zona un po' di confine, proprio nel cuore del caos, direi, di questo conflitto, perché Kremizan è qui e il muro entra, lascia il villaggio di Walage a est, ovvero lo isola da Gerusalemme, lo mette dalla parte palestinese, mentre ingloba la tenuta di Kremizan, che rimane dal lato israeliano, proprio perché il muro stesso segue quelli che sono i confini della municipalità israeliana unilateralmente tracciata nel giugno del 67. Infatti, ecco, nel giugno del 67 a Gerusalemme venne riservata una sorte molto diversa dal resto dei territori. Gerusalemme Est, infatti, venne immediatamente annessa dallo Stato di Israele, proprio perché era considerato un interesse fondamentale quello di farne la capitale unica e indivisibile, da cui non ci allontaneremo mai più, dissero, dello Stato di Israele, mentre il resto dei territori sono sempre rimasti tecnicamente occupati e mai annessi, perché annettere i territori palestinesi avrebbe necessariamente richiesto a Israele di farsi carico non solo del territorio ma anche e soprattutto dei cittadini, ovvero di dare una cittadinanza israeliana a tutte le popolazioni che erano residenti su questi territori, e quindi avrebbe significato dare passaporti, dare pieno riconoscimento anche ai cittadini in caso di annessione. Questo non è stato fatto, non era negli interessi naturalmente israeliani, e quindi i cittadini palestinesi sono rimasti appunto in questa zona occupata, in una sorta di limbo, fino alla costituzione dell'autorità nazionale palestinese nel 1994, dopo appunto gli accordi di Oslo. Io non voglio annoiarvi ancora di più, però ecco, spero che, se non altro, un'occhiata un po' più da vicino a questa mappa ci abbia permesso di capire la complessità nella quale ci si muove. Quindi voi vi potete immaginare ora, ecco, tornando, per passare la parola ad Andrea, tornando a parlare di vino, ci si può rendere conto di quanto sia anche difficile proprio lavorare con una cantina che si trova in questo punto e che di per sé non può contare su moltissima terra, perché se non sbaglio le vigne di Kremizan sono circa 10-12 ettari, quindi gran parte delle uve viene poi acquistata da conferitori, che sono agricoltori palestinesi e arabi, anche israeliani, che vengono da diverse zone, che vengono in alcuni casi da Israele, da questa zona qua, e che vengono anche dal sud della Cisgiordania, soprattutto tra Betlemme e Hebron. Questa è una zona bellissima, una zona veramente splendida da un punto di vista paesaggistico e collinare, per me almeno, che così, che io sono toscano e quindi mi ricorda, con tanti olivi, tante vigne, mi ricorda molto anche appunto la Toscana. E ecco, per questi agricoltori è assolutamente difficile, data la variabilità del contesto e della mobilità, date le restrizioni alla mobilità, raggiungere Kremizan con le proprie uve, e capita spesso che le partite vengano anche compromesse. Io mi fermerei qui, poi se qualcuno magari dopo ha altre domande, ben volentieri, però passo a Andrea la parola.